Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 16 maggio 2015. La ciclabile lungo il Po diventa il simbolo del nuovo ecoturismo. Ha avuto successo il progetto Ben To, che puntava a rendere ciclabile almeno una fetta importante del percorso di 679 chilometri tra Venezia e Torino, lungo il Po, individuato da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano. Sono infatti molte le amministrazioni locali che hanno recuperato le risorse per rendere ciclabile qualche chilometro in più rispetto ai 112 già fruibili 3 anni fa. Un altro contributo è stato garantito dalla modifica delle norme per consentire l'utilizzo cicloturistico di strade vicinali o arginali. Anche le ferrovie hanno fatto la loro parte e stanno proponendo sempre più spesso treni che permettono il carico-scarico della bici nelle stazioni lungo il percorso. La risposta è ottima. I primi dati di questo 2015 indicano una forte crescita dei cicloturisti italiani e stranieri lungo tutto l'asse del Po. Fin qui la notizia del 16 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Il progetto di una ciclovia da Torino a Venezia lungo il Po con tappa milanese per l'Expo è stato lanciato nei giorni scorsi dal gruppo di lavoro coordinato dal professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano. Luca Tomasini e Diana Giudici sono due ricercatori che hanno studiato il percorso. La prospettiva migliore è che nel 2015 la ciclabile esista per intero e che sia totalmente percorribile da Torino a Venezia e anche il raccordo tra Pavia e Expo. E sarebbe un modo per collegare Venezia a Expo 2015. Ci vuole una grande volontà da parte delle regioni interessate, delle province e di tutti i comuni, sono 4 regioni, 12 province, 121 comuni e noi abbiamo contato durante i sopralluoghi 242 località che potrebbero unirsi in questo progetto di ciclabilità, che sarebbe una delle ciclabili più lunghe d'Europa, in mezzo in un patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, culturale unico. La maggior parte del tracciato correrebbe lungo l'argine. Un argine che è potenzialmente pronto all'uso. Si tratta semplicemente di renderlo utilizzabile per le biciclette in tutti i suoi tratti, quindi stabilire una continuità tra tratti che già sono percorribili, tratti che non lo sono, ma l'argine c'è e è sempre a disposizione della bicicletta. La scelta del tracciato è stata fatta proprio in relazione al posizionamento delle stazioni ferroviarie. Mediamente, lungo tutto il tracciato è possibile trovare stazioni in un raggio di circa 6 km. Il problema sono poi i treni, che non sempre sono così accoglienti nei confronti delle biciclette, nel senso che qualche difficoltà legata poi all'attuale sistema ferroviario c'è rispetto all'estero, dove la salita e la discesa dei treni è molto più agevole. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.